Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Con che mestizia viene detto il rialzo delle temperature? Sta da vedere, oh, arriva giugno e arriva anche un po' di caldo. Comunque, bando a quello che è l'aspetto meteorologico, pensiamo a dare il bentornato calorosamente a Lorenzo Pauri a Radio Città Fujiko. Buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte. Grazie, intanto è una grande gioia ogni volta che un collaboratore ritorna e porta contenuti in un Last Minute che dà uno sguardo ampiamente in avanti. Però abbiamo voluto dare la possibilità per un weekend marittimo, se il tempo ce ne darà la possibilità in quel di Rimini, non solo per spiaggia e piadina. A proposito, grazie per la piadina di congedo per il tuo fine rapporto, che tra l'altro continuerà. È stata di buon auspicio, oltre che essere buona per il nostro palato. Grazie Lorenzo. Allora, grazie. Detto questo, iniziamo con un approfondimento, visto che è mercoledì, letterario che ci porta in quel di Rimini. Appunto, è un incontro organizzato, si può dire auto-organizzato, e questo te ne da merito, in collaborazione con una voce che tra pochissimo conosceremo. Ti lascio il microfono per presentare, bellissimo il nome, Mare di Libri. A te Lorenzo. Grazie mille. Mare di Libri è un festival fatto da ragazzi, un festival di letteratura per ragazzi ma anche per adulti. Beh, lo si può considerare comunque un last minute, perché per organizzare un weekend a Rimini ci vuole un po' di tempo, esatto. E niente, in queste tre giornate che vanno dal 14 al 15 al 16 giugno, il centro culturale di Rimini si tinge di bianco, azzurro e arancione, i colori dei ragazzi di Mare di Libri, e vengono raccontati tramite eventi, tramite incontri, vari esponenti della letteratura e vari scrittori, e vengono anche fatti degli interessanti dibattiti. E ora possiamo ascoltare la voce di Bianca Agostini, una ex volontaria di Mare di Libri e ora socia, che quindi gestisce questi, aiuta a gestire questi ragazzi, ed è partecipante di questo bellissimo movimento culturale, se mi posso permettere di dire. Siamo qui in compagnia Radio Città Fujiko di Bianca Agostini. Ciao Bianca. Ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Bianca Agostini è socia e prima è stata volontaria di Mare di Libri, un festival di letteratura per ragazzi che si svolge a Rimini. Cosa ci puoi dire a proposito di Mare di Libri, Bianca? Allora, Mare di Libri è un festival di letteratura per ragazzi, il primo in Italia, che si svolge a Rimini, appunto, come hai detto, il 14, 15 e 16 giugno. Ed è la sua particolarità, la sua eccezionalità, è dovuta al fatto che è un festival per ragazzi, fatto dai ragazzi, oserei dire fatto anche bene, e nel senso che tutte le persone che ci lavorano sono ragazze e ragazze dagli 11 ai 19 anni, e sono tutti volontari, anche noi soci adulti, tra virgolette, siamo tutti volontari, e si occupano di tutto, si occupano veramente di tutto, quindi della libreria, della logistica, della documentazione multimediale, quindi di fare le foto agli eventi, di accompagnare gli autori, quindi sono proprio loro in prima persona che, diciamo, si occupano dell'accoglienza, quindi magari accompagnano l'autore o l'autrice agli eventi o... Li assistono e li seguono, giusto. Mare di Libri si svolge nel centro di Rimini, che oltre ad essere una bellissima e frequentatissima città balneare, ha un centro romano molto bello e un teatro Galli, storico, nuovo di zecca, appena restaurato, in cui avremo anche l'opportunità di fare qualche evento e che vale la pena di essere visitato anche da solo. Tutto questo ci permette anche di creare un ambiente durante il festival, quei tre giorni in cui i ragazzi nelle loro magliette si muovono per il centro della città e la letteratura in quel momento diventa veramente la protagonista di una città, e tutti a Rimini sanno che il 14, 15, 16 giugno, comunque a metà giugno, la città si riempie dei nostri colori, che sono azzurro e arancione, che ci sono ragazzi che corrono di qua e di là, che ci sono dei grandi professionisti del libro. C'è grande coinvolgimento. C'è grande coinvolgimento, dire. Molto. E quando nasce Mare di Libri? Mare di Libri nasce 17 anni fa, infatti quest'anno siamo alla 17ª edizione, quasi maggiorenni, da un'idea di Alice Biggi, che è adesso la nostra, diciamo, la direttrice del festival. ormai diventata una personalità nella letteratura per ragazzi, ospitata anche in qualche evento al Salone del Libro di Torino proprio sulla letteratura per ragazzi, e lei è grandemente la coordinatrice di tutti noi, ecco. Perché esiste Mari di Libri e quali sono i vostri valori fondamentali, quello che volete esprimere? Mari di Libri esiste perché serviva uno spazio in cui gli adolescenti siano veramente protagonisti. Non protagonisti perché gli si chiede un consiglio e poi non si fa mai quello che loro dicono, ma perché veramente sono protagonisti. La formazione, il pensiero critico, oltre che dalla lettura, che è la base, anche il nostro valore fondamentale appunto, quindi dalla diffusione della lettura anche tra i più giovani, che in verità sono i maggiori lettori forti, è proprio anche quello di creare un ambiente in cui i ragazzi si sentano liberi, in cui ci sia inclusione, in cui possano esprimere le loro passioni e trovare le loro passioni, trovare il loro diamond, trovare il loro valore fondamentale. E ho visto tantissimi, tra cui me posso dire, e tra cui tanti miei amici, che sono partiti timidi, più riservati, e hanno finito questo percorso, il percorso di Mare di Libri, in cui si sentivano invece sicuri delle loro competenze, delle loro passioni, di quello che potevano e sapevano fare. Tanti ragazzi di Mare di Libri scoprono quasi anche la loro professione, non vorrei banalizzare, però interfacciano con un mondo che non è immediato, che non trovi tutti i giorni, perché oltre anche alle autrici e autori, a Mare di Libri ospitiamo editori, ospitiamo traduttori, ospitiamo anche uffici stampa, quindi i ragazzi possono vedere, toccare con mano, sono i protagonisti, se c'è un problema sono loro che lo devono risolvere, solo un secondo momento chiamare noi adulti, loro hanno la responsabilità in mano, e questo in Italia, ma spesso anche dappertutto, non succede quasi mai. E quindi la responsabilità ti fa crescere, ti aiuta, fa paura sicuramente, ma ti fa diventare quello che vuoi diventare, e tutto questo poi lo si fa in un ambiente che è la loro passione, quindi la nostra passione, che è la lettura, lettura per ragazzi. Quindi hai tante persone con cui parlare di lettura, cosa c'è di meglio? Io non lo so. Sì, sì, ti plasma, ti forma, ti aiuta a trovarti. Cosa ci puoi dire riguardo al programma? Dove si può usufruire, leggere, informarsi riguardo agli eventi che ci saranno? E se c'è un evento in particolare che ti incuriosisce un po' di più degli altri? Allora, noi abbiamo 39 eventi, quindi c'è di tutti i gusti. Abbiamo laboratori, dibattiti, spettacoli tra i due teatri della città, abbiamo degli eventi speciali, come mi sento di segnalare gli speed date con gli editor la mattina, quindi davanti a una bella colazione, i ragazzi, perché ci sono alcuni eventi solamente per ragazzi, in cui gli adulti non sono proprio ammessi, non puoi comprare il biglietto, quindi solo loro possono entrare, come gli speed date con gli editor e le cene con gli esordienti, che si svolgono invece la sera, in cui i ragazzi possono parlare davanti a una bella cena con degli autori esordienti, quindi anche questa è una bellissima opportunità, gli ospiti, gli utenti. Poi mi sento di segnalare che quest'anno avremo anche l'occasione, l'opportunità di ospitare un nostro autore molto amato, anche amato dai ragazzi, Zeo Calcare, e alle 16.30 di sabato appunto al Teatro Galli, quindi doppio motivo per venire. Poi avremo David Levithan, Sophie Anderson, Castagna, Morosinotto, ormai amici del festival, che svolgeranno degli eventi durante le tre giornate. Poi abbiamo anche per esempio l'evento di apertura, che mi sento di segnalare, con Telmo Pievani, un divulgatore scientifico molto molto interessante, e Alessia Canducci, ormai attrice riminese e amica anche lei del festival. Il spettacolo si chiama Antropocene, e ci parlano proprio della rivoluzione scientifica di Copernico e di tutto quello che ha portato questa meravigliosa scoperta. Più soprattutto abbiamo diversi format, non sto a entrare nello specifico, poi potrete consultare il programma se vi interessa sul nostro sito www.maredilibri.it, in cui troverete tutto nel dettaglio, ma dei format a noi molto cari sono i dibattiti, e sono due format nuovi: La strana coppia, in cui si parlerà di due temi, per esempio scuola e politica, comunque due temi che di solito non si associano o di solito si accostano, e due autori ne parleranno, autori e autrici. Diciamo ai gentili ascoltatori che in Romagna, Rimini, nello specifico, quest'estate si potrà trovare la spiaggia, la movida, la piada, ma soprattutto mare di libri. Grazie mille. E tanta cultura. E tanta cultura. Grazie mille Bianca Agostini, in bocca al lupo per tutto e un saluto e alla prossima. Crepi, grazie mille a voi. Grazie a Bianca Agostini per questo approfondimento esteso ma molto esaustivo. Allora, io so bene che il 15 giugno è un sabato, però si inizia il 14 e sarà per tutto il weekend di metà giugno in quel di Rimini, mare di libri, nome quanto mai attinente per la città romagnola. È per tutte e per tutti comunque. Sì. Vogliamo sottolinearlo. Alcuni appuntamenti sono particolarmente dedicati ai giovani e giovanissimi, però insomma è quanto mai esteso. Sì, sì. E alcune sedi per quanto riguarda il festival, tu tra l'altro sei di Rimini, puoi ribadirle? Ma sì, è un'ottima occasione anche per scoprire il centro di Rimini. Molto spesso ho sentito persone dirmi: ah, ma sai, sono venuto sempre a Rimini per il mare, poi ho scoperto che invece avete anche un centro storico interessante. E gli eventi sono proprio in centro, divisi tra il museo di Rimini, la biblioteca e il teatro. E questo è un valore decisamente aggiunto. Un po' di musica con Alana Royale e poi dopo si torna sui 103.1. Beh, restate sui 103.1, perché voltiamo pagina di oggi con Lorenzo, ovviamente William Piana, la possibilità. Avremo allo stesso modo comunque due pubblicazioni per voi, scrivendo la risposta esatta ai quiz che proporremo al 333-180-9494. Un saluto anche alla sissa Silvia Pioggia, che come ben sapete nell'incipit del mercoledì, che arriva un pochettino a spot, magari incontreremo nella prossima puntata. Intanto a tra poco con il voltiamo pagina, libri a colazione al Breakfast Club.